I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Lo Strider qui è Strike. Aereo identificato su rotta di rientro. Punto d'incontro col nemico sulla 090. Beh, cari vicentini, all'ascolto, abbiamo un po' drammatizzato, eh? Non è che Ghost Rider domani mattina passerà proprio sopra le vostre terre e così proverà i cannoncini, i missiletti, non so come si chiamano, le dotazioni armate del suo jet. Però di fatto, insomma, la notizia è di poco fa e recita che le ruspe sono entrate in azione all'interno dell'area dell'aeroporto Dal Molin, lo hanno reso noto i militanti del coordinamento No Dal Molin, che naturalmente sono contrari al progetto, che dicono che alle demolizioni delle strutture avrebbero lavorato 3 ruspe e alcuni camion. Insomma, niente di eccezionale. È annunciata una conferenza stampa e vi ricordo, l'ultima volta c'eravamo occupati, l'ultima delle tante, di questo argomento che in un certo senso porta il sorpasso americano qui dalle parti di casa nostra. Vi ricordiamo che il 5 ottobre si è svolto un referendum puramente formale, autogestito, nel quale 24.000 vicentini, ovvero il 28% degli aventi diritto, ha votato contro la base, addirittura il 95% dei votanti. Andiamo a dare un'occhiata da quelle parti con il contributo del nostro consueto esperto locale, se mi passi l'espressione, Antonino Padovese, giornalista del Corriere Veneto. Buon pomeriggio, Antonino. Sì, buon pomeriggio anche a voi. Insomma, che aria tira, ci sono novità, si sentono rumori, i jet, mi sembra di capire, di Top Gun ancora niente, no? No, né jet, né Top Gun, né altri aerei americani. D'altra parte il progetto definitivo della base deve essere ancora chiuso. I rumori che si sono sentiti questa mattina, che hanno allarmato i militanti del comitato No Dal Molin, erano quelle delle ruspe e dei camion che hanno avviato la demolizione di alcuni edifici che si trovavano all'ex aeroporto civile Tommaso Dal Molin di Vicenza. Hanno allarmato perché? Perché è la prima volta in questo caso che degli edifici vengono demoliti all'interno dell'area, edifici che venivano demoliti in assenza di un progetto definitivo. Ecco perché l'allarme di questa zona, anche se poi è arrivata la precisazione del sindaco. Insomma, c'è la sensazione che comunque qualcosa sta di fatto avvenendo, no? Sì, qualcosa sta avvenendo, ma in realtà stanno procedendo i lavori di bonifica del terreno. Sono cadute una quantità industriale di bombe anglo-americane durante la Seconda Guerra Mondiale, certo, quindi certo. La bonifica preventiva su un terreno va comunque fatta, soprattutto vicino a delle strutture che allora erano strategiche come aeroporti e come ferrovie. Quindi in sostanza questa mattina sono entrate delle ruspe e hanno demolito alcuni edifici perché pare ci siano da rimuovere alcune cisterne sotterranee, quindi vanno prima demolite delle palazzine, degli edifici che sovrastanno queste cisterne e poi saranno rimosse. Questa è stata infatti la precisazione del sindaco, che ha avuto notizie dirette dal comando americano che è di stanza alla base Ederle. Per concludere, Antonino, che aria si respira in città? La questione è ancora al centro dell'attenzione, è ancora oggetto di dibattito, o dopo il referendum si è un po' allentata, diciamo così, la tensione, il disaccordo comunque? No, la tensione si è un po' allentata, però basta una piccola fiammata, una piccola notizia o comunque qualcosa che scardina la routine per tornare a parlarne. Negli ultimi giorni la vicenda è entrata nella piena polemica politica perché c'è stata l'accusa da parte del presidente della provincia di Vicenza al sindaco di Vicenza Variati, che come sappiamo aveva promosso il referendum, che si è chiamato, certo, formale, ma che è stato poi autogestito per la destinazione dell'uso della base Dal Molin, dicendo se il sindaco di Vicenza continua con la sua politica in polemica con lo Stato nazionale, Vicenza rischia di perdere le cosiddette opere di compensazione, cioè il nuovo aeroporto la tangenziale nord ed altre opere di pubblica viabilità. Quindi il tutto è rientrato nella polemica politica della città di Vicenza. Va bene, grazie Antonino Padovese, resteremo in contatto nei prossimi giorni per vedere se di ruspe ne arrivano altre, se i lavori procedono spediti, soprattutto se questa operazione di bonifica di cui ci ha parlato assume una dimensione al di là dello standard, entra in una fase di eccezionalità. Naturalmente le nostre linee 349-238-6666 sono aperte anche per segnalazioni relative al Dammolin. E abbiamo scoperto che vi piace un sacco e quindi naturalmente ve la facciamo sentire per rendervi più lieve e piacevole il pomeriggio. Si chiama Stephanie McKay, questa è la canzone che dà il titolo al suo album Little More Time. Non è mica una pivella, è in giro da una dozzina d'anni questa signora, ma ne ha fatte tutti i colori, ha fatto la ballerina, ha fatto la corista, a un certo punto ha messo su una band di acid jazz, una ragazza del Bronx, una signora del Bronx. Little More Time è però questo album da poco in circolazione che le sta rendendo onore, le sta rendendo anche un bel po' di riconoscimenti. Stephanie McKay. Prima pagina. Se ne vedono di tutti i colori su attorno, diciamo, a proprio la periferia delle storie delle elezioni americane. CNN sta passando da qualche ora un video sulle porcherie elettorali, un dibattito tra un talk show tra signore, ad esempio, dove indossano magliette con scritte tipo American, per spiegare che sono pro McCain. Poi c'è un Joe Biden che ha un gioco mostruoso, tira delle palle da baseball finché non colpisce il centro e fa cascare una disgraziata in una vasca d'acqua e poi la bacia sulla bocca. Tra l'altro Joe Biden dovrebbe stare più tranquillo. E poi c'è l'ormai celebre prodotto di Larry Flynn, Flint, il film a luci rossissime, interpretato da una sosia, per modo di dire, di Sarah Palin, nonché questa fioritura in tutta America, caro Minaro, che tra l'altro io guardandoti ci sto cominciando a pensare, di sosia di Joe l'idraulico, e secondo me okay, ci potremmo no, hai un che di Joe, ci potremmo lavorare, interessante. Ci penserò anch'io per migliorare allora il look ci puoi far soldi soprattutto. Allora, io sposto un attimo il tiro sulla Cina, però restiamo collegati all'America. Stefano, come ti immagini una telefonata tra Hu Jintao e Bush? Con un sacco di traduttori. Esatto, simultanei. Comunque si sono telefonati, la notizia è questa, e hanno naturalmente parlato della crisi finanziaria e dei prossimi summit mondiali. Ce n'è uno a metà novembre proprio sulla crisi dei mutui che si terrà a Washington, la notizia anche di pochi minuti fa. Lo dice l'agenzia Nuova Cina, che come sempre a corredo di queste notizie offre dei comunicati che non dicono assolutamente nulla. Infatti leggo letteralmente: i due presidenti hanno scambiato i loro punti di vista sui vertici finanziari internazionali previsti e sul rafforzamento della cooperazione internazionale per fare fronte alla crisi finanziaria, che tradotto vuol dire niente. Nulla. Non abbiamo capito, ripetere da capo. Solo che non ho capito, insomma, di questa certo, cosa. Certo. Tra l'altro ci scrive Filippo da Bergamo a proposito di elezioni americane, vuole sapere: ma a Hollywood c'è qualche attore che supporta McCain o seguono tutti la moda Obama? Ma la risposta te la dai da sola, caro Filippo, perché citi per l'appunto il Texas Rangers, che noi incontrammo a suo tempo quando faceva parte attiva della campagna elettorale, però sosteneva Mike Huckabee, ma in un modo, devo dire, che a me non mi convinse molto. Secondo me qualche soldino, qualche dollaruccio lo prendeva. Credo che adesso sia passato il buon Chuck Norris sotto l'insegna di McCain. Non lo sento parlare da un po', Chuck Norris, non so dove sia finito, insomma, perlomeno per la versione elettorale. Farà un po' di campagna elettorale in provincia. Abbiamo fatto un conto delle donazioni fatte a democratici e repubblicani, e forse ce n'era uno di attore che dava un po' di soldi alla causa repubblicana. Gary Sinise credo sia repubblicano, poi Danny Soper, perché però stavolta ha fatto il voltafaccia, ha detto che vota Obama, altri a me adesso non me ne vengono. Però non so se era che Baldwin, che era con la Pani l'altro giorno a Saturday Night, hanno molto simpatizzato, anche un filo troppo. Tra l'altro la Palin al Saturday Night Live di sabato, in cui ha partecipato attivamente sia facendo un finto telegiornale che ballando poi il rap in modo assolutamente straordinario, ha fatto il record di ascolti del programma. Scusa se poco. Insomma, è un personaggio anche lei di questa campagna elettorale. Torniamo in Cina e torniamo a parlare del latte contaminato alla melamina. Oggi non ho le delizie di ieri con notizie succulente, però ce n'è una invece molto, molto seria e molto importante. Nuove ricette. Che riguarda l'idea di creare un passaporto elettronico contro le frodi alimentari e in particolare per tutelarsi dagli alimenti che arrivano dalla Cina. Questo passaporto si chiamerà China Trace, lo dice la rivista New Scientist, e verrà fatto insieme dall'associazione costituita dall'Istituto cinese Shandong e dalla Trace Tracker di Oslo, quindi società norvegese. Si tratta in pratica di una lista online dei cibi di provenienza cinese che possono aver contenuto melamina. Grazie a questo sistema sarà inoltre possibile stabilire come i vari ingredienti siano stati prodotti, insomma si fa una sorta di tracciabilità del prodotto, cercando poi di premunirsi da eventuali contagi, eventuali contaminazioni. Un altro messaggio arriva da Simo, che ci chiede se oggi qualche VIP ancora è salito sul carro del vincitore, dando del vincitore a Obama, che secondo me gli scongiuri dalla parte dei democratici si sprecano. No, però sapete, a New York sono le 10 di mattina, a Los Angeles le 7, abbiamo tutta la giornata davanti, fa ancora rumore e passa sulle televisioni americane l'intervista con Eric Schmidt, il CEO, l'amministratore delegato di Google, che ha preso posizione in favore delle proposte economiche di Obama, e ha detto di non credere che la proposta di aumentare le tasse sui redditi superiori ai $250,000 avrà un impatto negativo sull'economia statunitense. Questo è in questo momento il vero, forse anche l'unico nodo di discussione nelle elezioni americane. Su questo attaccano i repubblicani, e Barack Obama neanche si prende il disturbo di difendersi, perché è andato dalla nonna, ma di questo parleremo nelle successive sezioni del programma. E invece nella Cina dei grandi cambiamenti di questi anni del nuovo millennio c'è una nuova svolta storica, perché il governo di Pechino sta pensando di aprire le forze armate anche ai diplomati e ai laureati, cosa che per il momento è incredibilmente proibita. L'idea è quella di cercare, di sperare perlomeno, di risollevare il bassissimo livello culturale dell'esercito del popolo cinese. Ricordo che prima del 2001 addirittura gli universitari non potevano neanche candidarsi ad entrare nelle forze armate e i soldati venivano praticamente scelti tra le masse povere e prive di scolarizzazione. Non so se questo sia un retaggio della rivoluzione culturale, quindi torniamo indietro di 40 anni, però insomma questa nuova mossa del governo cinese dovrebbe creare soprattutto un bacino di oltre 15 milioni di giovani tra laureati e diplomati da cui attingere nuove leve, nel vero senso della parola, per l'esercito cinese. Oh, bravi, bravi, state dandoci una mano, suggerendoci nomi di star, di VIP, di Pro McCain. Sono arrivate due ottimi suggerimenti. Stallone, mi sembra perfettamente, perfettamente credibile. Clint Eastwood, che mi si dice libertario ma sostenitore di McCain, e io adorerei, come si dice, vedere, non so, un faccia a faccia Clint Eastwood, Sarah Palin. Secondo me Sarah Palin parlerebbe il 98-99, dal 98 al 99% del tempo. Però Clint Eastwood potrebbe incenerlo con un bello sguardo col sigaro magari di traverso, io non lo so, comunque Clint Eastwood effettivamente sostiene McCain. Mandateci altre segnalazioni, cerchiamo di creare insomma un gruppo di ascolto VIP anche per McCain. Mentre c'è un guaio in arrivo sull'orizzonte di Sarah Palin, di cui tra l'altro ascolteremo più tardi un estratto della intervista che si è finalmente decisa a concedere a CNN, riguarda i quattrini, riguarda le spese, è probabilmente una piccola bomba orologeria che i democratici non hanno neppure deciso se far esplodere o no, no, per cercare di restare coerenti alla filosofia del loro leader del momento, Barack Obama, che non vuole fare campagna negativa, almeno dice di non voler fare campagna negativa. Sono saltati fuori dei conti spese pesanti, soprattutto per figli, figlie e mariti portati in giro per l'America a spese dello Stato dell'Alaska, che in realtà però pare non abbia un articolo che proibisce questo genere di spese, però si parla di $170,000 in biglietti aerei e in magnifiche suite a New York per portarci la famiglia. Del resto, voglio dire, sei governatore, vivi in Alaska, una volta che vai a Manhattan, una volta che vai a New York, vai da solo. I don't care what the rest. Le elezioni presidenziali americane 2008. Obiettivo 4 novembre. Ma come eravamo stati tirchi, ma come eravamo stati distratti a fare tutte quelle chiacchiere su Chuck Norris, il Texas Ranger, nessun altro che supporta Hollywood, John McCain. Qui la lista, ragazzi, si è ingrossata, abbiamo nomi di gran peso, si farebbero anche parecchi soldi a metterli tutti insieme in un film, o forse no, perché il pubblico sarebbe over 60, qualcosa del genere. Comunque abbiamo detto Stallone, Clint Eastwood, i primi a essere entrati nella nostra lista. Poi è arrivata una segnalazione raffinata da Alberto, che dice che John Voight sostiene John McCain, e ci siamo ricordati anche di averlo visto da qualche parte in una situazione di questo genere. John Voight, tra l'altro, è il papà di Angelina Jolie, che invece è assai democratica. E poi un'altra segnalazione: Bruce Willis e Mel Gibson. Ma come non pensarci, Bruce Willis e Mel Gibson, è chiaro che stanno per McCain, anche se non ne siamo sicuri, siamo pronti a scommetterci. E poi arriva un'altra segnalazione che ci dice che in realtà Chuck Norris, se qualcuno di voi ne sentisse la mancanza, a parte il fatto che sta tutte le sere su Rete 4, ma insomma, è ospite attualmente del Trinity Broadcasting Network Europa, che viene riproposto almeno nell'area di Roma su Teletevere, una televisione dei pentecostali. Ci chiede l'ascoltatore se noi ne sappiamo qualcosa. No, ma ci documenteremo. E comunque sì, ci sembra perfettamente credibile. Vi dicevo, ha fatto campagna per Mike Huckabee, che è assai vicino ai pentecostali. C'è un filmato interessante su CNN che testimonia a San Francisco, nel corso di un dibattito, l'aggressione, per carità, solo verbale, nulla di fisico, anzi ha cercato di stringergli la mano, seppure in modo ironico, ma lui si è rifiutato, guardava sempre avanti, faceva finta di non vedere niente, di Karl Rove, lo stratega di George W. Bush, da parte di una bella bionda che è salita sul palco dove Karl Rove così discettava e faceva il sapientone insieme a altri signori. La bella bionda, che sicuramente era incavolata per le solite storie, Bush, la guerra, è andata su, gli ha urlato in faccia qualcosa, lui si è impietrito con la sua bella faccia a luna piena, lei gli ha urlato ancora più, ha cercato di dargli la mano. A quel punto sono arrivate le guardie del corpo, che hanno trascinato via la bella bionda, che Carrovi, analizzando con cura il filmato, neanche guarda in faccia, neanche gli ha dato un niente. Oh. Hai capito, caro Pietro Paganini, presidente di Competre, il think tank italiano che elabora strategie per il libero mercato? Hai capito quanto è duro Carrovi? La bionda niente, non l'ha neanche, proprio neanche degnata di uno sguardo. Che ne dici? Buon pomeriggio a Stefano, a Emiliano e a tutti gli ascoltatori. Beh, non lo so come avrei reagito io, quindi con il ma non facciamo la storia. Cioè, ma anche tu guardavi davanti dritto, lei sta lì di fianco. Non mettermi in imbarazzo, sai, devo mantenere il mio profilo serio. Sai, era una campagna elettorale per la presidenza, probabilmente avrei puntato alla presidenza. Senti un po', dunque, ci sono dei sondaggi che i sondaggi dei sondaggi CNN e dei sondaggi in genere, compresi quelli di Zogby, che sono tradizionalmente più avari nei confronti di Barack Obama, che parlano ormai di double digit, di vantaggio in doppia cifra per il candidato democratico. E analizzando con cura i media, la stampa americana delle ultime 24-48 ore, mi sembra di poter dire che stia cambiando profondamente l'aria, che l'atmosfera stia andando verso un ormai ha vinto, è quasi presidente. Fatti gli scongiuri dei democratici, gli altri, soprattutto gli osservatori esterni, sembrano tutti orientati a concedere. Tu concedi? Ma devo dirti la verità che ho avuto un colloquio proprio ieri in previsione della nostra trasmissione di oggi, e devo dire che anche nell'area più estrema libertaria repubblicana c'era un po' di sconforto. Mm-hmm. E non solo in relazione alla eventuale sconfitta di McCain, ma anche a una eventuale, tra virgolette, batosta elettorale che i repubblicani prenderebbero per poi quanto riguarda il rinnovamento del congresso e della Camera Bassa. Bravo, bravo, già facciamolo questo discorso, perché naturalmente noi parliamo sempre di presidenza, anche perché è un problema serio, tanto più in questo 2008, ed è il più visibile di lontano, ma qui si va anche al rinnovo di buona parte del Congresso, vero Pietro? Si va al rinnovo. Ieri alcune cifre che mi sono state fornite parlavano di 49 senatori oggi repubblicani che diventerebbero 40 e 194 oggi nel Congress che diventerebbero 170. A cifre attuali significherebbe una sconfitta piuttosto sonora di conferma rispetto a quanto era successo poi quando i democratici hanno preso il posto dei repubblicani al timone del Congresso, e lì si era creata una situazione di disequilibrio che poi ha guidato l'America negli ultimi due anni, cioè tra un presidente repubblicano e un Congresso assolutamente anche Pietro, se però c'è tutta una teoria di esperti addetti ai lavori che sostengono che in fondo il meglio di sé l'America la dà proprio quando c'è una tensione tra Casa Bianca e Congresso, magari anche una disparità, che non c'è niente di male ad avere un Congresso di un colore e una presidenza di un altro. Ma quello sicuramente è un punto di vista. È chiaro che avere un presidente democratico e un congresso interamente democratico significa poter fare quello che si vuole, è un po' quello che si rivela oggi in Italia, una maggioranza assoluta all'interno del Parlamento, riuscire quindi a far passare di tutto, e questo è quello che temono i repubblicani. Ieri proprio mi si diceva la nostra preoccupazione è che appena eletto Obama comincerà ad aumentare le tasse, comincerà una serie di riforme che naturalmente colpirebbero l'orgoglio e le fondamenta ideologiche repubblicane. Naturalmente la stessa cosa si verificherebbe nel caso in cui ci fosse, come c'è stato, un congresso di colore repubblicano e un presidente repubblicano. Si tratta di vedere se i numeri sono questi e se le opinioni sono che vince Obama. Ecco, ci aspettiamo un congresso e un unico colore, che vuol dire uniforme, e portare l'America in una direzione precisa, e vedere che cosa accade. Certo. Dipende, io rimango, abbiamo già scherzato abbastanza su questo, però fino al 4 novembre rimango in guardia. In guardia, perché la storia proprio ci ha insegnato dagli Stati Uniti che soprattutto nella lettura che facciamo a livello internazionale poi ci dimentichiamo di una serie di passaggi assolutamente importanti. Però l'impressione, mi dispiace di non essere stato negli Stati Uniti negli ultimi 10 giorni, però l'impressione è che ci sia, anche a seguito della crisi economica, del credit crunch, una deriva da quella parte, conforto, certo. Ma sia all'interno dei repubblicani, che però colpisce anche, devo dire, i democratici, che non vivono con euforia questo loro momento. E qui ho avuto altre occasioni di confronto, c'è soddisfazione per quanto dicono i sondaggi, c'è paura sul fatto che i sondaggi possano prendere sbagliare completamente, e poi c'è comunque la consapevolezza che un presidente eletto in questo momento deve affrontare una profonda, non solo crisi finanziaria, che significa una ristrutturazione poi delle regole della finanza, ma affrontare una profonda crisi economica che lentamente sta colpendo i settori poi chiave dell'industria americana, che nonostante rimanga e rimane oggi l'economia più dinamica, e alcuni fattori lo dimostrano, però è un'economia decisamente, come le grosse economie mondiali, è decisamente in difficoltà. Quindi ci si tratta di dire, è veramente Obama in grado di governare gli Stati Uniti? E sai, molte delle critiche che oggi muove McCain sono proprio sul fatto che Obama non sarà in grado di governare la crisi e di governare anche gli Stati Uniti, anche dal punto di vista internazionale. Grazie Pietro. Io tra l'altro ricordo che tu sei docente di management alla John Cabot University. Telegraficamente, perché dobbiamo andare al traffico, ma anche in questa istituzione, nota istituzione americana all'estero, si respira più o meno quest'aria? Ma devo dire, se guarda gli studenti si respira l'aria di YouTube, quindi i miei certo. Studenti tra l'altro la maggior parte hanno votato già tramite posta, hanno proprio votato dall'università, e erano molto contenti, emozionati di questo, abbiamo vissuto insieme questa loro prima volta, però non sentono più di tanto la crisi finanziaria, anche perché il dollaro oggi gli sta dando ragione, sono più soddisfatti, che possono più spendere quando escono la sera. Nei docenti ho visto che naturalmente hanno votato, non posso esprimermi sul sul loro voto, ma lascio immaginare ai nostri ascoltatori, certo. C'è uno sconforto per quanto riguarda comunque la crisi finanziaria, ma anche una preoccupazione per quelli che sono i riflessi a livello globale, non tanto solo per il credit crunch, ma ripeto, e questa è anche una mia cavallo di battaglia teorico, il credit crunch è un problema, ma c'è un grosso problema che va di pari passo, che è la recessione o la crisi economica mondiale, che a prescindere dal credit crunch c'è e va affrontata politicamente. Grazie a Pietro Paganini, ripeto, presidente di Competere, docente alla John Cabot University, una delle università americane di Roma. Elezioni presidenziali americane 2008. Obiettivo 4 novembre. Ma è buffo che la rete conservatrice di notizie americane Fox stia dedicando uno spazio al talento comico di Sarah Palin, ma insomma, bene o male, è la candidata alla vicepresidenza. È pur vero che nelle sue apparizioni brillanti, diciamo, quelle fuori servizio, è stata bravissima, soprattutto l'altra sera al Saturday Night Live, ma insomma, parlare di talento comico non mi sembra proprio così una indicazione di presidenzialità. Un gentile ascoltatore ci ha mandato un bel link con un sito dove ci sono le celebrities per McCain, così possiamo essere completi e documentati come si deve, insomma, in una radioseria. Quindi i nomi adesso ce li abbiamo tutti: c'è James Caan fra i sostenitori di McCain, c'è Lou Ferrigno, Hulk, c'è Robert Duvall, è vero, conservatore repubblicano storico, c'è Lorenzo Lamas, che non so chi sia, ma figura come uno di Beautiful. Poi cominciamo ad andare più sul difficile, c'è Kevin Sorbo, che ha fatto Ercole, ma di più non vi so dire, e poi c'è Jerry Bruckheimer, il produttore dei film più cattivi d'America, nonché di CSI, di Cold Case, di molta televisione e anche dei Pirati dei Caraibi. Un'altra lista di attori che favoriscono il nostro John. Qui c'è tra l'altro una bella immaginetta di John Voight, sempre bellissimo, che sostiene il candidato repubblicano. Tra l'altro ci scrivete: come la mettiamo coi brogli? È già successo, scrive Mario da Bologna, ma brogli non lo so, di sicuro la Florida non porta proprio fortuna alle elezioni americane, perché voi sapete, forse, se no ve lo dico io, che in America già si vota, cioè il 4 novembre è il giorno, il 90%, 95% degli americani andranno a votare in quella data, ma non è così solenne la cosa, perché ci sono quelli che in America lo chiamano gli early birds, gli uccelli del mattino. Se voi siete un early bird a un parcheggio pagate la metà, se siete un early bird al seggio elettorale probabilmente saltate la fila, non fate la fila. Il problema è che in Florida stanno già andando a votare, ma trovano i soliti computer che non funzionano. 7 su 15 nel weekend si sono rivelati rotti, e secondo il produttore, non so come si dice, il fabbricante, insomma quello che li ha messi lì, era colpa dell'umidità. Signori, queste sono le elezioni americane, non vogliamo neanche sentire parlare di riconteggio, sarebbe veramente l'incubo, credo, per l'America d'oggi. Invece vogliamo sentir parlare Sarah Palin, che ha concesso, come vi dicevo, una intervista lungo sospirata a CNN. Vi ricordate, qualche settimana fa è scoppiata una vera e propria guerra tra la rete di Turner e il ticket repubblicano. Adesso è arrivato, come sempre accade, l'armistizio, un'intervista di 16 minuti che è completamente peraltro disponibile sul sito CNN. Ve ne facciamo sentire un estratto che si occupa un po' dell'argomento caldo del momento nella polemica tra repubblicani e democratici. Da una parte c'è il viaggio dalla nonna di Barack Obama, su cui molto ci sarebbe da dire, e domani qualcosa vi dirò, perché è l'ennesima mossa astuta di David Axelrod, lo stratega che guida col telecomando le mosse di Barack Obama, e questa, guardate che è un'ottima mossa, poi ne parleremo domani. Invece la questione è improvvisa scoperta che Barack Obama è un socialista. Sarà proprio vero? McCain dice forse è anche un po' comunista. Sentiamo che cosa ne pensa il governatore della Alaska, Sarah Palin, interrogata da Drew Griffin. Governor, is Barack Obama a socialist? Governatore Palin, lei pensa che Barack Obama sia un socialista? Io non lo chiamerei un socialista, ma come ha suggerito Joe l'idraulico, Obama se n'è uscito con delle cose che per l'appunto suonano come socialismo. E Joe parla a nome di così tanti americani, che adesso sono piuttosto preoccupati dopo aver finalmente capito le vere intenzioni di Obama riguardo alle tasse e all'economia, che poi in sostanza riguarderebbero l'idea di chiedere di più alle piccole imprese e alle famiglie, per poi ridistribuire secondo quelle che lui considera delle priorità. Tutto ciò non suona bene allo spirito imprenditoriale che ha reso grande questa nostra nazione. Non va bene per la nostra economia, non favorisce certamente le opportunità di cui la piccola impresa dovrebbe godere per aumentare la produzione, dare lavoro a più gente, creare occupazione. Sono queste le cose che fanno marciare l'economia. Insomma, alla fine dei giochi, Joe l'idraulico, come stiamo dicendo nei nostri comizi di questi giorni, rappresenta anche Jack l'ingegnere, Molly l'infermiera e Chuck il maestro. E qualche sera fa, tutti questi americani che lavorano duramente hanno avuto l'occasione di sentire con le proprie orecchie il proposito che Obama sta portando avanti di ridistribuire le ricchezze. Crede che nelle sue intenzioni Obama, per quanto non in senso socialista, voglia comunque allontanarsi dal tracciato del vero capitalismo? Credo che chiunque in un momento come questo parli di aumentare le tasse, tanto più con le difficoltà economiche come quelle che ci apprestiamo ad affrontare. Chiunque pretenda un sacrificio ancora maggiore dalle nostre imprese e dalle nostre famiglie, chiunque voglia alla fine gestire questi quattrini secondo le proprie priorità, credo proprio che costui non agisca secondo i corretti principi del capitalismo. No, va bene, io mi dimetto seduta stante. La pioggia, come si dice, la pioggia di SMS che mi coprono, oltre che di meritati insulti, ma di biografie, di informazioni, di lodi, di ricordi, tutte le vostre memorie che circondano la figura di Lorenzo Lamas, che come potevo non sapere chi fosse? Io me lo chiederò per tutta la giornata e credo anche per buona parte della notte. Ma Lamas è Renegade, faccio finta di sapere chi sia, qualche tempo prima di Chuck, Slack mi scrivono, ma mi scrivete tutti, telefilm che va su Rete 4 quando si mette a riposo Texas Ranger. Beh, insomma, dice il motociclista randaggio buono ma un po' outlaw, scrive Michele da Verona, chiaramente incavolato con me. Il magico Renegade, scrive Chris. Io, ragazzi, faccio ammenda, vado a riflettere sui miei peccati e sulle virtù di Renegade, sul quale domani prometto sarò preparatissimo. Vi dico che questo è Jefferson Ming. Io sono Stefano Pistolini, redazione Milano Enrico, in regia Alessandro Chiappini e Pietro La Corte, Roma e Milano, Jefferson Ming e Radio24.it, replica alle 21, diretta domani alle 4, qui su Radio 24 con una pioggia di Lorenzo Lamas. 手来手去都只是游戏。